intrude, fai entrare il prossimo paziente. Buongiorno. Oh, bella segretaria. In realtà sarebbe mia moglie. Ah. Lei è il signor? Carbone. La vedo pallido, avvilito. Ma che gnugna. Ma che gnugna. Signor Carbone. Ma non si sta drizzando. Ma deve andare in bagno. Non sia timido. Si sdrai e cominci quando vuole. Mi aiuti, dottore. Sono 8 settimane che non dormo, non mi addormento neanche se guardo una ventina di video porno. Non ce la faccio più, io sto impazzendo. In ogni punto vedo donne con minigonne che stanno battendo. Poi la situazione è sempre la stessa. In erezione faccio infrazione per essere fermato dalla vigilanza che mi dice fatto il codice civile mentre la fisso. Immaginando il colore delle sue mutandine. Ne passano e sono depresso. Per esempio i pelati li immagino col ciuffo e lo spacco in mezzo. E la cosa strana è che mi eccito. Ma quando? In ogni momento. Ho divorziato da 5 anni. Ricordo solo momenti spaziali. Ma la notte non reggeva ai miei ritmi sessuali. Dottore, lei mi deve aiutare. La notte sto male. Quando lei è un problema grave. Se sei morto in strada, da guarire c'è la trama. Ma la mia mente è schiava. Prossimo, prego. Ciao. Il prossimo. Ma sono io. Ho detto il prossimo. No, anche qua. Non si preoccupi, qual è il suo problema? Gertrude. No. Gertrude. No, no, no, no, ti prego, ti prego. No. Di tempo a questa parte che vedo cose troppo strane. Non è un film come White Noise. Collaura le persone, sento vocine nel cervello che mi dicono uccidile. Se cammino per la strada ho gli istinti omicidi. Mi pare di stare con un paio di pare. Pare che appare, pare che mi vogliono acchiappare. Ma pare di tenere più pare che in un cantiere. Male che con me sta bene come sale nel mare. Stavolta la botta l'ho presa proprio forte. Una lotta tra chi svolto e chi si abbotta di botte. Non aprite quella porta, ho aperto 5-6 porte. In poche parole vedo le persone morte. Sente che la mia mente m'ha lasciato da tempo. Sogno la notte di parlare, fa spaventare Marilyn Manson. Più scheletri nell'armadio, io che nel cimitero un tempio. E stento, capisco quello che ti sto dicendo. Si stanno impossessando della mia psiche. Ma io sono uno psichiatra. No, sono un becchino. No, no, sono un Latin Lover. No, io sono morto. Cos'è questa? Una gelata, oddio.